Rassegna Stampa Europa. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, questa volta cambiamo un pochino argomento, non siamo più sulle pagine dei giornali italiani ma su quelle dei giornali stranieri, in particolare europei, e cerchiamo di focalizzarci, come ormai sapete per questa rassegna del sabato, sui temi appunto che riguardano l'Europa, quindi l'Europa vista dall'Europa. Cominciamo dal Guardian, dove è stato pubblicato questo articolo sulla questione di Malta, di cui ci siamo occupati anche noi molto nei primi giorni della settimana. Il titolo è Malta è il rompicapo dei rifugiati. Il sommario: la piccola isola deve affrontare da sola flussi migratori insostenibili per le sue strutture. L'Unione Europea deve intervenire al più presto per ripartire il peso dell'accoglienza tra tutti i suoi membri. Vi leggo la prima parte dell'articolo. All'inizio di questa settimana un gommone sovraccarico di persone in fuga dall'Africa verso l'Europa se l'è vista davvero brutta. Quando l'imbarcazione in viaggio dalla Libia verso il più piccolo stato dell'Unione Europea, Malta, iniziava ad affondare, l'esercito maltese ha lanciato un'operazione notturna di 13 ore per portare soccorso sui 112 passeggeri. 8 di loro sono stati trasportati in aereo in ospedale per cure d'emergenza, gli altri hanno dato segni di spossatezza, disidratazione e colpi di sole. Questa non è un'eccezione. Ogni settimana imbarcazioni di questo tipo arrivano sulle coste di Malta. Il mese scorso il primo ministro Joseph Muscat ha cercato di rispedire in Africa due aerei pieni di migranti somali, ignorando la loro richiesta di asilo, facendo tornare in mente la politica australiana dei respingimenti, prima che la Corte Penale dei Diritti Umani d'Europa emettesse una sentenza provvisoria in base alla quale un'iniziativa di tal genere sarebbe stata illegale. Muscat ha fatto sapere di non aver mai avuto intenzione di procedere al rispingimento. A suo dire si sarebbe trattato soltanto di una provocazione per sollecitare un tempestivo intervento da parte dell'Unione Europea. Poi sappiamo che la questione dei 102 migranti è stata risolta perché l'Italia si è offerta di accoglierli, ma appunto è solo una, come sottolinea il Guardian. Tra l'altro noi abbiamo parlato di questo perché ci riguardava in primo piano, però come ricorda il Guardian poi questi sono episodi quasi all'ordine del giorno per Malta. E allora vi leggo l'ultima parte dell'articolo del Guardian. Una cosa è certa: non si può andare avanti così, senza integrazione con le minoranze etniche segregate e sfruttate, con il razzismo in ascesa. I respingimenti, come quello tentato il mese scorso, sono giustamente illegali, ma se l'Unione Europea è favorevole a proteggere chi cerca asilo, deve aiutare i paesi di frontiera ad attuare politiche che favoriscano il raggiungimento di questo obiettivo. I paesi come Malta, che hanno poca esperienza con gli immigrati, non dovrebbero essere lasciati soli. Bisogna mettere a punto delle prassi adeguate che prevedano un'assistenza reale ai migranti quando arrivano, un'accelerazione del processo di richiesta di asilo e la tempestiva ricollocazione di quanti lo ricevono. L'Unione Europea deve offrire risorse agli Stati membri e vigilare sulla cooperazione. E sulla stessa questione, quella di questa nave che ha appunto riaperto il tema dell'immigrazione clandestina e soprattutto che poi in estate si riaccende perché è più facile attraversare il Mediterraneo con le condizioni di mare che ci sono in estate, e su questa questione torna anche Le Libre Belgique, un quotidiano belga. Il titolo è L'Europa divisa. Anche in questo caso vi leggo una parte. La decisione del governo maltese di negare il permesso di sbarcare a 102 migranti nella notte tra il 5 e il 6 agosto ha scatenato un braccio di ferro con la Commissione europea e dimostra, scrive Le Libre Belgique, le falle della politica europea in materia di immigrazione. Sembrano insomma tutti d'accordo, forse appunto l'Unione europea dovrebbe veramente cominciare a occuparsi più seriamente di questo problema. Secondo la Libre Belgique, il rifiuto non è un caso isolato e la gestione delle domande d'asilo, teoricamente armonizzata, resta invece assai differente tra i paesi dell'Unione Europea. Questo, ecco, è un tema che forse non avevamo trovato approfondito sui quotidiani italiani, questo delle domande di asilo, perché sapete che si può fare asilo se si viene, asilo politico, si può chiedere asilo politico se si viene da paesi che violano i diritti umani, per esempio, o dove ci sono dei gravi conflitti. Alcuni di essi, scrive la Libre Belgique ancora, non nascondono più di non voler rispettare gli impegni presi nel quadro della Commissione di Ginevra sui rifugiati. Ma visto che è una questione che riguarda Malta, vediamo che cosa ha scritto per esempio The Times of Malta, uno dei quotidiani dell'isola: bloccato il piano per rispedire i migranti in Libia. Interpellata d'urgenza dalle ONG il 9 luglio, la Corte Europea dei Diritti Umani ha vietato al governo maltese di rimandare indietro una sessantina di immigrati somali sbarcati in mattinata. Negli ultimi giorni, spiega appunto il Times of Malta, l'arcipelago ha assistito all'arrivo di molti migranti provenienti dalla Libia. Nelle 48 ore precedenti alla decisione di rimandare indietro l'ultimo gruppo, sarebbero arrivati oltre 1.000 clandestini. La settimana scorsa il primo ministro Joseph Muscat aveva allertato l'Unione Europea, ma il commissario europeo agli affari interni Cecilia Malmström aveva risposto che qualsiasi espulsione sarebbe illegale. Ma il fatto che l'Unione Europea sia stata incapace di elaborare una strategia per l'immigrazione non è un segreto. Questo però non autorizza il nostro governo, scrive The Times of Malta, a trasformare il paese in un paria a livello europeo. Passiamo a un altro argomento, che è quello del baby boom. Sapete che così si definisce quell'impennata delle nascite che c'era stata negli Stati Uniti subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando per negli Stati Uniti, ma non solo, il ritrovato ottimismo, l'idea che si era archiviata definitivamente un'epoca, e quindi le persone, come quasi sempre capita quando c'è una fase di espansione economica e di speranza, avevano fatto figli, quei baby boomers che poi sono stati protagonisti per tanti anni e sono ancora protagonisti negli Stati Uniti. Ecco, da qui è quel neologismo baby boom che adesso c'è in Inghilterra. Ne parlano AI, una rivista inglese, Financial Times e anche Wall Street Journal. Il Regno Unito va contro la tendenza demografica europea, che invece sapete è negativa. L'Italia è uno dei paesi con il tasso demografico più basso, rinnovo demografico più basso. L'anno scorso sono nati 813.200 bambini, il numero più alto dal 1972. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica, nel 2012 la popolazione della Gran Bretagna è cresciuta di 419.000 unità, il più consistente aumento in Europa. Il dato sarebbe dovuto all'uso di farmaci per la fertilità da parte delle donne di mezza età e all'alta natalità delle famiglie di immigrati, dato che il 60% dell'incremento registrato tra il 2001 e il 2007 è dovuto a donne nate all'estero. La popolazione del Regno Unito è ora di 63,7 milioni di persone, la più grande in Europa dopo Germania e Francia. E sulla questione delle donne che fanno figli sempre più tardi, avevamo trovato anche un approfondimento sul Corriere della Sera, mi sembra ieri o giovedì, e sul fatto che appunto per esempio a Milano, erano dati della Mangiagalli, che è la clinica più famosa, la clinica anche più grande, con questo grande reparto di ginecologia e ostetricia, l'età media delle donne che fanno il primo figlio è molto salita. Su questa questione, tra l'altro, del fatto che il 60% dell'incremento è registrato da donne nate all'estero, e visto che si parla spesso in Italia anche di ius soli, cioè del diritto ad acquisire automaticamente la cittadinanza italiana se si nasce in Italia, vi segnalo che in Gran Bretagna questo diritto non esiste, ci vogliono anni per ottenere la cittadinanza, quindi sicuramente quando parliamo di queste cose forse è utile confrontarci con paesi che hanno una storia di immigrazione molto più lunga della nostra, e quindi forse hanno anche riflettuto sulle scelte che conviene fare su questi temi. Ma veniamo alle Soire, cambiamo anche qui argomento. Le Soire, un altro quotidiano belga, si occupa di salario minimo, partendo dai dati pubblicati a fine luglio da Eurostat, che mostrano che il salario minimo in Belgio è tra i più elevati d'Europa, scrive Le Soire. E anche qui, tutto sommato, ci colleghiamo a un tema che verrà affrontato probabilmente in settembre, che è quello del reddito di cittadinanza, che è un ammortizzatore sociale di cui si comincia a parlare, che è qualcosa di fondo di simile al salario minimo. Ma spiega Le Soir, che approfondisce l'argomento, con 1.502 euro netti al mese il Belgio si piazza al secondo posto in Europa dopo il Lussemburgo, 1.874, davanti ai Paesi Bassi, 1.478, Irlanda, Francia, Regno Unito con 1.190 di salario minimo, all'ultimo posto c'è invece la Bulgaria, che pensate ha un salario minimo di soli 159 euro. Il quotidiano belga nota però che in Europa c'è un solo paese che non ha un salario minimo ed è la Germania. Riguardo ai presunti effetti devastanti del salario minimo sull'impiego, Le Soir sostiene che si tratta di un falso dibattito e di una vera sfida, e che in Belgio la verità è che la differenza tra il salario minimo e il sussidio di disoccupazione è troppo bassa, e quindi appunto a volte le persone preferiscono percepire il sussidio di disoccupazione che trovare un lavoro, visto che lavorando il salario minimo è comunque di così poco superiore al sussidio di disoccupazione. Passiamo Ha un altro tema ed è interessante che se ne occupi la Gazzetta Wyborcza, che è un quotidiano polacco. Il tema è quello della pedofilia tra i preti. Basta paura e vergogna, così si intitola l'articolo del giornale polacco. Le vittime dei preti pedofili polacchi stanno creando una fondazione per processare i loro molestatori, farli bandire dal contatto con i bambini, eliminare le limitazioni alla prosecuzione dei pedofili e ottenere un risarcimento dalla Chiesa Cattolica. La fondazione Non abbiate paura, che è una frase, ricorderete, di Giovanni Paolo II, sarà la prima fondazione che era il Papa polacco, appunto Papa Wojtyla, sarà la prima fondazione a favore delle vittime dei preti pedofili polacchi. Un altro tema interessante, forse una delle ultime segnalazioni che riusciamo a fare oggi, è tratta dall'Avanguardia, un giornale spagnolo, e riguarda le quote rosa, altro tema molto dibattuto, o forse non abbastanza dibattuto. L'iniziativa lanciata dalla commissaria alla giustizia, ai diritti fondamentali e alla cittadinanza, Viviane Reding, per instaurare un sistema di quote femminili nelle grandi aziende dell'Unione Europea rischia di prendere una strada senza uscita, scrive l'Avanguardia, a causa delle divergenze in seno all'Unione. La proposta fissa al 40% i posti riservati alle donne nei consigli di amministrazione delle aziende europee contro l'attuale 13,7%. Ma un rapporto presentato a giugno dall'Irlanda al termine del suo semestre di presidenza europea rileva che è stato impossibile trovare una posizione comune tra i governi sulla proposta. Scrive ancora l'Avanguardia, la commissaria non si rassegna perché a Parigi ha i suoi appoggi e spera che Berlino possa ammorbidire la sua posizione dopo le elezioni di settembre, che sapete sono un po' un punto di svolta per la Germania, perché molto probabilmente Angela Merkel e il suo partito, la CDU, vinceranno le elezioni, però insomma finché non è fatta non si può dire. L'Avanguardia prevede quindi un duello politico tra due donne note per il loro carattere combattivo, che sperano di occupare posti di responsabilità nell'Unione Europea a partire dall'anno prossimo. E quest'altra donna è Algimanta Pabedinskienė, che è la ministra lituana degli affari sociali ed è il semestre appunto di presidenza dell'Unione Europea è della Lituania. Era l'ultimo, una buona domenica da Giulia Crivelli, anzi noi ci risentiamo domani per la rassegna stampa italiana. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.